rigorosamente in diretta. Partiamo con queste schegge veramente impazziti questa sera, nel senso che, come potete, per quelli che ci seguono, insomma, vabbè, intanto diamo gli auguri per il Natale passato, e se non ci risentiamo facciamo gli auguri per il 2018, che sia veramente prospero e sereno. Io questo me lo auto auguro sinceramente. E questa sera il mio programma, che come avete imparato a conoscere è un programma che spazia tantissimo, no? Dalla musica, abbiamo ascoltato, abbiamo fatto un viaggio attraverso le annate musicali negli ultimi 40 anni, poi ci siamo avvicinati al cantautorato italiano e poi, ecco, l'altra scorsa settimana abbiamo fatto una breve incursione nella cultura, e questa sera ritorniamo a fare questa incursione, ma questa sera lo facciamo con un personaggio. Lei non vuole che si dica così, ma è un personaggio importante ormai. Come non è vero? Un personaggio importante nella cultura nazionale e nella poesia. E stiamo parlando di Alessia Bronico, è una poetessa, vi posso assicurare, affermata. Fatemi un giro su internet e vedrete i risultati del suo lavoro. E insegnante, musicista, attrice. Vabbè. Qualcosa di, io non mi sento, ecco, adesso sì, dicevo, un personaggio dalle mille sfaccettature. Alessia, adesso ti devi presentare. Vabbè, hai già detto qualcosa, esagerando un pochino. Non credo. No, va bene, sì, scrivo. Il mio lavoro è quello dell'insegnamento, insegno musica a scuola e provo tanta soddisfazione perché mi piace lavorare con i ragazzi. O si sono diplomata in conservatorio, quindi se quello mi mi fa essere una musicista, allora sì, sono una musicista. Beh, sì. Sì, sono, vabbè, ho studiato canto. Diplomato al conservatorio, laureata, ragazzi. Ma io sinceramente non voglio, io lo dico veramente col cuore, sinceramente, nel senso che anche per noi, voi sapete che la nostra radio si occupa di un po' territorialità, chiamiamola così, però per noi è anche un orgoglio averti qui, è un orgoglio anche in qualche modo pubblicizzare, per quanto è nelle nostre possibilità, il tuo lavoro, perché insomma sei un prodotto della nostra terra, adesso non, sì, ti voglio, non ti voglio paragonare a alle patate, voglio dire, però poi è vero, le patate mi piacciono, sì, è una delle pietanze, appunto. Io, tu pensa che sono per la rivalutazione della pastorizia, insomma, sono uno dei cultori più grandi appunto della cultura pastorale. No, io mi piacerebbe un po' intavolare un discorso con te stasera per far intanto, ecco, come ti è saltato in mente di cominciare a mettere i tuoi pensieri in versi? E non mi rispondere come hai fatto quell'intervista all'11, no? Sì. Allora, la prima volta che ho scritto la ricordo non in maniera molto precisa, ma facevo le superiori. Però io mi sono informato, tu eri brava anche alle elementari. Davvero? Chi te l'ha detto? Io questa cosa l'ho... hai vinto un concorso, roba del genere, anche l'elementare. Sì, sì, sì, sì. Io non me lo ricordo. Io sì. Raccontami. Mi hanno detto questo. Delle superiori me lo ricordo, ma sì, delle elementari, sì, sinceramente, sì, sì, non ricordo. Vabbè, io poi, sai... no, adesso mi dici. Vecchi maestri, eccetera. Vabbè, dopo, quando fai partire la musica mi racconti. Sì. Perché io mi ricordo che... In realtà la prima cosa che ricordo, l'elementare, evidentemente c'è qualcos'altro che mi ha colpito, non quello. Ricordo di questo amore per la poesia nato dopo che la professoressa mi aveva spiegato Petrarca. E ricordo benissimo le mie prime prove fallimentari, anche molto, molto elementari, nella mia cameretta, col libro di testo delle superiori, e leggevo Petrarca, e Petrarca è un mio grande amore. E quindi queste sono state le prime prove. E poi un concorso di poesia. È stata sempre questa mia dolcissima professoressa di italiano, che ringrazierò sempre, a farmi concorrere. Ed effettivamente si ebbe un bel risultato, quindi mi confrontai con altri ragazzi, ci fu la premiazione a Pompei, ho un ricordo bellissimo anche della premiazione e della visita degli scavi. Ma io una cosa che mi è sempre... io da lettore, no? Parlo da lettore, un po' come tutti, credo, mi sono cimentato anch'io nei versi, ma nei momenti, no, di grosso squilibrio. Ma dicevo, tu che ci stai dentro adesso, ma vedi questa... sai perché te lo chiedo? Perché intanto diciamo come si intitola il tuo libro di poesie. Allora, il mio libro si intitola L'abito della felicità. Ed è un viaggio, no? Sì, è un... sì, possiamo definirlo un viaggio, sì. Ed è un viaggio. No, ti chiedo questo perché io la poesia, molti di noi profani, tra virgolette, no, identificano comunque, fanno un parallelismo tra poesia e dolore e condizione non... esaltante, no? Ma sta cosa non è vera, no? o è vera? Cioè, spiegaci. Beh, credo che sia molto soggettiva la condizione del poeta al momento dello scrivere, ecco. Io posso parlare per me, non posso parlare per gli altri, ovviamente. Ci sono sicuramente dei momenti di grande dolore, di grande malinconia. La malinconia è sicuramente una compagna piuttosto fedele. Ma aiuta? Cioè, secondo me non è una questione di aiutare o no, è proprio una condizione. No, questo è ripeto, l'ho visto anche un po' in giro, sbirciando quella, no, sui social, ma anche se quella condizione appunto di malinconia o vabbè dolore, quindi se la scrittura diventa terapeutica, diventa anche qualcosa che ti... ho letto ad esempio che alcuni poeti dicono che la maggiore espressione compositiva si raggiunge in determinati momenti di... No, volevo chiedere se eri d'accordo o meno su questa... Non lo so, perché non so se ho raggiunto la maggiore... No, uno che una scrittrice, una poetessa che poi fa l'abito della felicità, quindi dovrebbe essere contrario. Allora, il mio titolo potrebbe essere ingannevole, quindi... uno specchietto per le allodole. In realtà non è proprio... i testi non sono... cioè, la felicità è l'elemento centrale ed è quasi una personificazione. Qualcuno ci ha visto una personificazione, un personaggio. Però no, tranquilla, tranquilla, tu ci vedi fare cose. Sì, sì. Io mi vedo muovermi. Sì, no, ma stiamo scambiando cuffie, eccetera. No, dicevo, l'abito della felicità, sì, però non è sostanzialmente in realtà la ricerca della felicità, quella che io racconto nel libro. Va bene, ne parliamo adesso. Mandiamo un po' di musica, perché altrimenti okay. I nostri si... No, perché adesso sono curiosa di sapere questa cosa delle elementari, quindi me la devi dire. Vediamo un po'. Thank you. No, diciamolo che non siamo emozionatissimi, siamo contenti, nel senso che presentando l'abito della felicità non potremmo essere... Allora, siamo in diretta rigorosissima, come si suol dire nelle migliori radio, su Radio Cerrano Web 20:43 e siamo in onda con Alessia Bronico, una nostra conterranea che attualmente lavora, come si suol dire, nel nord Italia, come dicevano i nostri nonni, e però insomma l'abbiamo invitata perché è una voce importante, fa poesia da alcuni anni, ma non solo, scrittrice dall'elementare. Appunto, abbiamo chiarito questa cosa, anche se dici che lei non ricorda nulla. E poi niente, tu sei diplomata in canto, sì. Ecco, e quindi il mondo, diciamo, dell'arte ti ha sempre attratto. Sì, sì, anche se c'è un po' di amore e anche un po' di rifiuto. Soprattutto il canto è una dimensione che, a differenza della poesia, con cui ho avuto un approccio un po' più difficoltoso, nonostante sia la mia materia, ecco. No, questo è interessante, questa cosa sarebbe da... No, è interessante perché comunque la poesia credo che sia una delle arti molto affine alla musica, sì. E al canto, no? Sì, la poesia è musica, quindi è musica, sì. Quindi queste assonanze vere e proprie poi in effetti portano anche a questa poliedricità, no? nel proprio io, che quindi adesso tu ti sei incanalata su questo discorso della poesia e fortunatamente hai avuto questo dono che magari altri non hanno. Ma l'hai coltivato o proprio te lo sei ritrovato così? Ti è molto naturale? Allora, cioè, voglio dire, è anche studio, è anche approfondimento. No, sicuramente credo. La poesia, a prescindere dal talento, richiede tanto studio e tante tante letture. Bisogna veramente studiare sempre. Sempre e per sempre, direbbe De Gregori. È vero, poi qualcosa sentiremo di Gregori. Che dici se ci leggi? Ti leggo qualcosa? Sì, leggici qualcosa, dai. Vediamo. Non mi sono preparata niente, così a caso. Non è vero. Come se non è vero. Non c'è. Dai, facciamo. Non ci crede nessuno. No. Facciamo la Ma poesia. È vero, non si è preparata niente. Ve lo posso giurare. Facciamo la poesia che... Quella che ami di più. Sinceramente non ce n'è una in particolare della raccolta che amo di più, perché l'amo tutta. È stata... Ci ho lavorato a lungo e... Quanto ci hai lavorato? Allora, quasi 2 anni a questa raccolta. Qualcos'altro invece... un altro lavoro inedito invece è stato più... Un lavoro un po' più rapido. Questa mi ha richiesto tanto, tanto lavoro, ma... Perché ho fatto proprio uno scavo sulla tradizione, uh-huh. su me stessa l'Abruzzo, e quindi mi ha richiesto veramente un ascolto di me molto profondo. E poi ce lo spieghi però, ci provo. No, ci spieghi nel senso, ci spieghi quali sono questi agganci, no? con l'Abruzzo. E adesso vi leggo la poesia che in teoria darebbe il nome alla raccolta, ma in realtà il titolo nasce prima della raccolta, quindi perché qualcuno dice magari il titolo che è la poesia che dà il titolo alla raccolta. No, il titolo nasce prima della raccolta. L'abito della felicità. L'abito della felicità che conosci ha i colori del mare, garbino nelle pinete d'Abruzzo, beatitudine di calanchi assolati, dirittura di cattedrali, viottoli, mosto biodinamico, gelo da cui far conoscenza di mare, donne d'Abruzzo, farina nelle dita accese, libri sotto i letti disfatti, musica sulle scale scolorite dal tempo, io di tale terra, tu con me. Beh, adesso si capisce tutto, no? I rimandi alla nostra terra sono più che tangibili, più che noti, no? Poi la cattedrale e tutte quelle, i calanchi eccetera, e io credo che noi in queste zone siamo leggermente fortunati. Lo dico sempre, perché comunque riuscire a calpestare il suolo che è stato calpestato per millenni da tantissime altre persone, quindi io penso sempre alle altre storie, no, che ci hanno preceduto, io credo che questo ci dia un qualcosa in più, senza nulla togliere poi a tutte le altre realtà che ci circondano, no, più moderne, più moderne. Io credo che la fortuna sia proprio questa, infatti nella tua poesia esce fuori quello che gli americani, no, dicono, il background. Facciamo un po', no, mi interessava un po', vabbè, non dico scavare, ma comunque approfondire questo discorso del tuo lavoro di A me dà l'idea, no, leggendo i tuoi versi, di un lavoro di togliere più che trovare, quasi come lo scultore, no, che deve togliere per far emergere la sua figura, la figura che ha in mente. Sì, sicuramente faccio un lavoro di sottrazione, però prima di tutto ho fatto un lavoro di recupero delle mie radici, quindi capire da dove arrivo, quanto da dove arrivo è importante per me o è stato importante per me. Questo anche perché sono via da tanto e ad un certo punto mi sono chiesta perché mi manca quel posto o mi manca così tanto. E poi perché ritengo che per fare una rivoluzione bisogna partire dalle tradizioni, cioè qualsiasi rivoluzione parte dalla conoscenza vera delle tradizioni. Ho capito, sì, sono perfettamente d'accordo su questa cosa, ma quanto ti manca allora questa terra? Quanto ti manca quando stai su e quanto la odi, se la odi, quando stai qua? Guarda, hai centrato, perché poi quando sto qua dopo un po' dico mamma mia. Sì, questo è un classico però. Lo so. Mi mancano ovviamente alcune cose, mi mancano non tanto le persone care, quelle ovvio, sì, che mi manchino, mi mancano i profumi, mi mancano i paesaggi, mi mancano alcune sensazioni legate ai paesaggi. Ultimamente, ovviamente il libro ormai è uscito da quasi 2 anni e io nel frattempo vado avanti e sto approfondendo la mia, sempre riguardo al territorio, il mio amore per i calanchi. E poi per la Maiella. Per ambedue le cose vorrei fare dei lavori, cioè vorrei che venissero fuori dei lavori, vedremo se avranno seguito. La montagna sempre in fiori. La madre, sì, è vero. Che forse, come dire, è un po' messa da parte. Io quando giro l'Italia, tra virgolette, insomma, non è che faccio questi grassi giri, però insomma è molto più conosciuto il Gran Sasso, no? Sì, però la Maiella, diciamo che sono collegate la Maiella, sì, e il Gran Sasso, e c'è ovviamente il mito, questo racconto bellissimo sulla genesi della grande madre e del gigante che dorme, e su questo sto lavorando grazie alla richiesta di una persona, ma non posso dire perché, per scaramanzia, perché se sarò in grado, sì, di soddisfare la richiesta. No, sì, è vero, in questi periodi meglio non parlare scaramanzia, non ci crediamo, però sai come. Dillo tu, dai, insomma, con la serie di premi che hai vinto. No, non si dice? No, non è, cioè possiamo anche dirlo se vuoi. Ma tanto non ci ascolta nessuno, quindi non è un problema. No, vabbè, niente di... No, non è vero. Non che non siano importanti, però... Guarda che lo dico io, eh. Una mia caratteristica è quella di guardare sempre avanti, purtroppo è anche un limite, forse mi godo poco il presente. Comunque mi sono classificata seconda in concorso di Ossi di Seppia per gli inediti, e poi ho pubblicato il libro, poi il libro ha avuto dei riconoscimenti di cui sicuramente sono contenta, sicuramente sarà contento anche il mio editore. Ci stai lavorando su un altro libro? Sì, no, l'ho già finito. Ecco, una cosa che mi incuriosiva un po' da non addetto ai lavori, ma quanto è difficile trovare un editore che ti pubblichi? Sì, è difficile. È difficile O trovare un editore serio, diciamo così, perché insomma magari ci sono tantissimi piccoli editori, però ce ne sono di serie, quindi in realtà il tuo com'è? Piccolo e serio? Piccolo e serio. Lo salutiamo. Salutiamo il nostro l'editore che si sta preparando per pubblicare il secondo. No, questo non lo so, cioè il mio secondo per il momento sta lì. È fermo. Però vabbè, insomma è bello poter parlare di questo anche con te, cioè nel senso che non è che a noi ci capiti tutti i giorni, se non magari per qualche altro, insomma a me è capitato per lavoro, per altre cose, però per noi, ecco, come dicevo, per noi comunità, e io quando parlo di comunità, insomma, parlo sempre della nostra comunità. Noi, questa Radio Cerrano è praticamente collegata all'area marina del Cerrano, però è comunque collegata a quelle che erano un po' le terre del Cerrano, le terre degli Acquaviva, eccetera. Insomma, questa la caratteristica che dicevo, per noi è abbastanza bello, è abbastanza importante sia averti qui e sia poter parlare di queste cose con te, mentre invece avverto il nostro regista, l'indomito Carlo Mix, che può andare con il prossimo brano. Bene. È giusto comunque sottolineare che questi interventi musicali questa sera, i primi due sono stati affidati a Ezio Bosso, un personaggio ormai della musica, e naturalmente non può essere altrimenti. La parola questa sera avrà un po' il sopravvento rispetto alla musica, non può essere altrimenti, perché avendo ospita una poetessa nonché divulgatrice anche, perché comunque è insegnante, non può essere altrimenti che la parola abbia un po' il sopravvento. Alessia Bronico è con noi e ci sta un po' deliziando, ci sta anche un po' facendo scoprire alcuni segreti del mestiere, possiamo dire così, e comunque ci sta disvelando un po' la figura del poeta, che è un po' vista da vicino. Davvero? Com'è? Sì, perché vedi, io credo che qualcuno abbia anche un po' un'idea così aulica, invece poi fare poesia significa anche studio, fatica, dedizione, vero? Sì, sì, è vero. Ma tu mi devi aiutare. Cosa ti dico? Sì, è vero, sì, è fatica, è studio, io cioè ovviamente c'è tutta la parte vivo e scrivo, quindi ecco, io vado avanti, no, a botta di curiosità. Sì. Ma tu vivi e scrivi nel senso che c'hai degli orari prestabiliti, che ne so, oppure così, come c'hai un momento della tua giornata dedicata? Sì, generalmente mi dedico la notte, ma perché la mattina sto a scuola. Per questioni proprio esigenze. Pomeriggio ovviamente mi dedico a mio figlio, che amo tantissimo, e quindi il resto del tempo, quello che mi resta, è generalmente dopo cena, e mi dedico alle letture e alla scrittura quando... A questo punto sarebbe interessante anche parlare con tuo marito, no, lasciamo stare. No, vabbè, scherzi a parte. No, un altro riconoscimento, credo, no? Che sia che c'hai lì vicino a te. Ah, l'almanacco. Non abbiamo la web radio, quindi ve lo posso dire io. La web TV, ve lo posso dire io. Questo almanacco bellissimo, interessante, in cui Alessia, ve lo dico io, è stata pubblicata. Sì, è un almanacco edito, è il numero 5, edito da Raffaele Editore, e ho avuto l'onore di essere inserita nella regione, appunto, Abruzzo, insieme ad altri poeti, e per questo ringrazio Gianfranco Lauretano, ma anche Lamberto Garcia. E ringrazio Gianfranco soprattutto perché della lunghissima chiacchierata che abbiamo fatto passeggiando per Atri, mangiando anche i prodotti locali, ha colto tantissime sfaccettature interessanti anche poi del mio libro, e ha colto anche alcune cose che mi interessano molto, per esempio la condivisione, ne parlavamo anche noi. Sì. Prima. A me piace tanto condividere, quindi spesso non, cioè è difficile che io parli molto della mia poesia, ma dico mi piace questo, ho letto questo. Gianfranco ha colto questo, e soprattutto l'esperienza del baratto che io ho avuto quest'estate con un'accademia che è nata di recente a Pianella, Arotron, l'Accademia Teatrale Arotron, creata da Franco Mannella, con la quale ogni tanto collaboro, con la quale farò delle cose anche nei prossimi mesi, e quindi ringrazio Franco, non so se ci sta ascoltando. Sì, voglio, lo faremo sentire, anche se manderemo il podcast. Gli manderò il podcast. Sì, perché comunque dovete sapere, ormai i nostri ascoltatori lo sanno, che Radio Cerrano va in diretta, ma poi tutti i nostri programmi sono accuratamente registrati, messi lì su un nostro archivio, su un archivio digitale, li potete scaricare, riascoltare in podcast. Dobbiamo dire che il podcast ci dà delle buone soddisfazioni, vero Carlo? Esattamente, sì. No, questa cosa è interessante. Io manderei il prossimo brano perché mm-hmm. c'è un aggancio, perché il prossimo brano è di Guccini ed è un brano che dall'ultimo album di Guccini, che è l'Ultima Tulle, registrato interamente nel suo vecchio mulino, perché lui si è trasferito su, quindi l'aggancio no con la propria terra. Mm-hmm. E poi ti volevo fare una domanda, preparati. Quando è stata quell'ultima volta che ti han preso quei sandali nuovi al mercato coi calzoni corti e speranza d'estate alla porta ed un sogno che più non ritrovi e quei sandali duravan 3 mesi, poi distrutti in rincorse e cammino. Quando è stata quell'ultima volta che han calzato il tuo piede bambino lungo i valichi dell'Appennino? Quando è stata quell'ultima volta che ti ho vista e poi forse baciata? Dimmi adesso, ragazza, d'allora, quando e dove te ne sei andata, perché e quando ti ho dimenticata, ti sembrava durasse per sempre quell'amore assoluto e violento. Quando è stato che è finito in niente, perché è stato che tutto si è spento, non ha visto nemmeno settembre. È stata quell'ultima volta che hai sentito tua madre cantare, quando in casa leggendo il giornale hai veduto tuo padre fumare, mentre tu ritornavi a studiare. In quei giorni ormai troppo lontani era tutto presente e il futuro, un qualcosa lasciato al domani, un'attesa di sogno e di oscuro, un qualcosa di incerto e insicuro. Volta che la vedi e la senti parlare, quando il giorno dell'ultima volta che vedrai il sole nell'albeggiare e la pioggia ed il vento soffiare ed il ritmo del tuo respirare, che pian piano si ferma e scompare. C'è un bellissimo documentario che documenta appunto tutta l'incisione di questo album di Guccini e tutto il trasporto della roba, eccetera. E l'ho scelto io questo brano perché appunto c'era questa connessione, no, con la propria terra. Guccini si è trasferito nel suo vecchio mulino, nel mulino dei suoi genitori, e vive lì ormai con la sua compagna. E questo perché? Perché c'è l'aggancio con ciò che diceva prima Alessia, che è qui con noi e che stasera ci sta deliziando un po' della... stiamo parlando un po', stiamo discorrendo di poesia e di letteratura, di cultura in genere, come ci piace fare. E, sì, ecco qua, mi dicono che devo abbassare il volume. E dicevo, c'è questo aggancio, ce l'hai? Sì. E stavamo parlando prima di questa nostra terra, a volte bistrattata dalla natura, bistrattata nel senso che ormai i terremoti e altre cose ce la stanno scuotendo in maniera anche abbastanza robusta dal 2009 in poi. L'anno scorso è stato, quest'anno è stato anche particolarmente doloroso per noi. Sì. Però dicevo, la letteratura, ma anche la poesia, noi stiamo lottando da anni, noi, quando dico noi, diciamo la nostra cultura così abruzzese, sta lottando da anni con questa idea, no? Con questa immagine un po' di arretratezza anche culturale, che a mio avviso, in cui c'è lo zampino anche di qualche scrittore, poeta, io penso a D'Annunzio, no? Vabbè, questa è una mia opinione. Nel senso di sì, questa immagine bucolica che però alla fine poi può sfociare anche con un'immagine di, dicevo prima, anche arretratezza culturale, che poi così non è. Secondo te c'è stata questa cosa o è una mia impressione? Oddio, può essere. Sicuramente non è un'impressione. Se tu l'hai avuta è perché probabilmente c'è qualcuno che è a sostegno di questa tesi. E come ti dicevo prima, secondo me l'Abruzzo, cioè io la vivo come una terra esotica, ma non arretrata. Cioè il fatto di essere per taluni aspetti selvaggia non significa che sia abitata da persone che abbiano un'arretratezza culturale, anzi. Sì, io credo in questo che ci ad esempio credo che abbiano influito anche i grossi viaggiatori dell'Ottocento, gli inglesi ad esempio, che nelle loro escursioni qui hanno dato un'immagine un po' così... wild. Sì. E invece no, poi sì. Ci sono sicuramente delle eccellenze letterarie, non solo. Quindi forse bisogna un po' staccarsi. Cioè, secondo me il recupero della tradizione deve appunto aiutarci a staccarci da alcune etichette che ci troviamo appiccicate. Appunto, sì. A quello deve servire, no? Essere coscienti di quello che siamo per andare avanti, perché poi sostanzialmente è quello, cioè non ci si può ancorare alla tradizione in maniera come dire sterile. Sì, sterile, ecco, cioè la tradizione per andare avanti, cioè da adesso e guardare al futuro, no? Si parlava anche del fatto che comunque questa è una terra purtroppo negli ultimi anni molto provata. E quindi anche il territorio ne risente, i paesi si spopolano. Sì, questo purtroppo è un argomento, io direi l'argomento del giorno purtroppo per noi abruzzesi, e credo che il tutto, se si connette alla difficoltà di, come dicevi tu, di valorizzare la propria cultura, può dar luogo ad un mix, secondo me, disastroso, nel senso che, vabbè, ripeto, questa è una mia opinione, sì, certo. Nel senso che quando mi accade di accompagnare delle persone, degli amici in giro e spiegare che questo territorio è stato il territorio di asceti, di persone che comunque hanno fondato, che hanno anche retto, tra virgolette, l'aspetto spirituale della Chiesa. Penso a Celestino V, penso sì, anche ai primi compagni di San Francesco, e quindi questa è terra di elaborazione culturale e filosofica. E faccio fatica, no, a far capire questo. Quando qualcuno viene e si mette di fronte alla nostra cattedrale, non può non notare che dietro ci sia anche un lavoro culturale e filosofico alto. Sì, sicuramente, però non basta attualmente. No, attualmente non basta, e credo che, e forse questo l'ho capito di recente ascoltando, grazie ad alcuni amici, la poesia di Antonio Alleva, che è un abruzzese, anche lui, e vi invito a leggerlo perché è una poesia bellissima. Purtroppo non è con me il libro, altrimenti avrei condiviso molto volentieri. Per me leggere Alleva, soprattutto nell'ultimo mese, è stato quasi catartico, per distaccarmi un po' dalle mie origini. Purtroppo, come abbiamo appena detto, l'Abruzzo vive un momento difficile in seguito a terremoti, la grandissima nevicata del 2017, lo sanno, cioè, ne sono, sì, a conoscenza tutti, no? Però bisogna fare anche i conti col presente, cioè bisogna vedere. Adesso bisogna essere anche un po' pratici, non fa proprio parte del mio carattere, però da che ripartiamo? Cioè, cos'è che resta? Ecco. E da quello bisogna ripartire. Poi non è sempre necessario tornare indietro. Io questo l'ho capito di recente. Non è vero che se il terremoto butta giù un paese, forse sarò impopolare nel dirlo, bisogna necessariamente ricostruirlo. E probabilmente la storia ce lo insegna, quindi a volte ci ostiniamo in alcune cose, però ripeto, forse sono impopolare e forse sono cose che io capisco per me stessa, non voglio essere portavoce di nessuno in questo. Oddio, io poi aggiungerei, ringraziando il cielo adesso si può ricostruire in maniera diversa, esatto, quindi sarebbe anche giusto fare i conti con i segnali che la natura ci esatto, invia. Tu però adesso hai ritrovato una poesia che ci leggerai, giusto? Sì, l'ho scritta quest'estate ed è stata pubblicata su Atelier Online, e appunto perché parlavamo dei calanchi e quindi condividiamo qualcosa che facciamo sicuramente felice Adriano De Ascentis. Esatto, che ringrazio per la bellissima visita di quest'estate. Sì, vabbè, ma poi Adriano è un nostro amico, tra parentesi stiamo concordando con lui anche una puntata in cui appunto si parlerà di calanchi, di scoperte, perché poi Adriano è un grande scova delle cose incredibili. Adesso sta facendo una grossa ricerca sulla liquirizia. Sì, Adriano poi è piacevolissimo da ascoltare. Sì, è veramente un appassionato. Ecco, quando si ascolta Adriano, si ascolta un appassionato. Ecco, in tutti quindi i sensi. Adesso ti leggo, sì, la poesia sui calanchi, poi siccome hai nominato la liquirizia, torniamo al libro così. Ah, vedi? Giuro che non era preparato. No, non era per Adriano, però. Non era preparato. I miei capelli erba calanchiva, spina dorsale esposta al sole, mani mie, rami adagiati al calore che ferma l'ora arsa nel grembo sterile di madre argilla, i miei occhi fiori radi, arroccati, piedi nuovi steli a proseguire il paesaggio e tra i venti di fuoco il ritmo. Io, i cui seni custodiscono un calanco eroso dalla storia. Notti che durano non so quante ore, cascate impetuose o gocce in un mare, notti che bruciano su una ferita, notti boccate di vita, notti indelebili che marchiano un volto, notti invisibili senza raccolto, notti da incorniciare, ore di plastica da riciclare, notti che spaccano il calendario senza brindare per l'anniversario, fasi di tempo che invecchiano un uomo e le facciate di un duomo. E con coraggio potrai viverle fino alla fine, o chiuderle in una bacheca, ma è un'esistenza più cieca. Con l'incoscienza potrai spenderle tutte in un sogno, per annegare il rimpianto e dare voce al tuo tempo. Forse le dimenticherai, forse le ascolterai. Giocate di sponda, lì ad aspettare la tua giusta onda, notti da preda, da velvo, da insetto, fuggite o prese di petto, impermeabili ad ogni ricordo, c'è chi ne parla, ma io resto sordo, notti acquazzoni d'estate, di gonfie di storie perdute, le notti scivolano, raschiano in fondo, lievi di schiuma o pugni di piombo, imprevedibili come naufragi, notti da cani randagi, con la costanza potrai seguirle fino a un traguardo, voltarti indietro stupito che non sei neanche partito, con la coerenza potrai difenderle dalla vergogna o dare ragione a uno sbaglio, tapparti di dosso il guinzaglio. Forse le cancellerai, forse le canterai. No, la cosa che mi piace è che Alessia si sta divertendo tantissimo e questo è buono. Non c'è il microfono. Sì, vai. No, bisogna salutare Maurizio Giannangelo che interagisce sulla mia pagina Facebook, che ha fatto una foto ad una poesia e adesso Gliela leggeremo. Certo, ma ormai siamo arrivati ai tempi delle dediche delle vecchie radio, è giusto così, ma a noi ci piace, noi siamo un po' vintage come radio, ma è una scelta editoriale, è voluta la cosa. Sì, Maurizio è un nostro amico comune che va salutato assolutamente. Animo gentile. Maurizio, io lo vedo come poeta, tu... ce lo vedi? Maurizio fa delle foto bellissime, secondo me. Quindi... dillo a me. Adesso gli facciamo un po' di pubblicità. È un poeta della macchina dell'immagine. Un poeta dell'immagine. Lui dice di no, io dico di sì, ma è così, Maurizio, no, veramente. Pare che, cioè, perché giustamente qualcuno gli dice la prossima volta vai tu in radio, e lui ha risposto a spolverare i microfoni. Così adesso sta a casa a vergognarsi. Eppure lui in radio sarebbe. No, non male, perché poi Maurizio è uno che capisce tutto, è uno bravo. E adesso gli dedichiamo la poesia. Che ha scelto lui. Che ha scelto lui. Ti assumi le tue responsabilità, Maurizio. No, se l'assume Maurizio, sì. No, poi sarebbe bello capire perché. Questo ce lo dovrebbe scrivere adesso. Sì. Vediamo. Siccome c'è il mio numero anche, Maurizio, scrivimelo su perché. Intanto gliela leggiamo. Sì. Consumami. Consumami e facciamola finita. Consumami di sguardi, di parole, di baci e di fraintendimenti. Col vino, di giorno, tra la folla, in un bagno sul vagone lurido di un treno preso a caso. Consumami toujours. Consumami senza consumarmi mai abbastanza, contro portoni secolari, su un viale, tra i pini d'inverno e i gabbiani avidi. Consuma la mia schiena. Consumami in una danza tribale, in un lamento funebre, in un brindisi matrimoniale. Non il mio, non il tuo. Tous les jours, à rebours. Ottima scelta. Oh, questa, allora questa l'avevo, mi aveva colpito anche me, devo dire. E quindi, Maurizio, ottima scelta. Lo sai che per me, per te, questa era una poesia proprio, come si suol dire, la morte sua in tutti i sensi. E, no, sono contento anche di questa interazione, di queste interazioni anche sulle nostre pagine Facebook. Sulla nostra pagina Facebook e su Instagram abbiamo un buon riscontro, la cosa ci fa piacere nonostante le partite di calcio, però insomma è normale, non credo che chi ami il calcio poi sia attaccato alla radio per ascoltare questo tipo di programma, anche se noi abbiamo il piano B, che è quello che è quello del podcast, perché poi lo potete risentire non solo domani, credo, sulle nostre, ecco, mi veniva da dire sulle nostre frequenze, ma non è più così, sui nostri kilobyte, sui nostri kilobyte, sui nostri megabyte, che fa più. E oppure potete scaricare dal nostro archivio digitale, che per noi è una delle cose più importanti, perché segna anche un po' la storia del nostro territorio. Ecco, noi, la nostra intenzione, cioè quella di Radio Cerrano Web, è proprio quella di lasciare una piccola traccia, no, su ciò che accade, su ciò che è accaduto, e quindi anche una sorta di trasmissione delle conoscenze. Professore, questa... questa è buona, buonissima. Questa trasmissione delle conoscenze, che credo che ognuno di noi abbiamo anche un po' l'obbligo di fare questo. E, no, ritorniamo a noi, ritorniamo un po' alla poesia. Questa era una poesia d'amore, quella che ha appena letto. Più o meno, sì. Sì, dai, ci poteva stare una poesia d'amore, sì. No, io l'ho interpretata così sin dal primo, cioè da quando l'ho letta la prima volta. Sì, è una poesia d'amore, c'è amore in questo libro, ma non solo. Cioè, allora, in questo libro c'è la mia terra, c'è l'amore e c'è la morte anche, quindi Eros e Thanatos. Beh, c'è la vita, quindi. Esatto. C'è la vita, sì, la nostra terra, la nostra, non dico bistrattata, no, perché in fondo noi la amiamo tantissimo, credo che si sia capito dalle nostre parole, la amiamo tantissimo e ne siamo anche fieri, insomma, questo, la nostra passione nasce anche dalla consapevolezza di essere, come dicevo prima, un po' fortunati, no, di vivere in questa terra, come diceva Alessia prima, esotica e allo stesso tempo piena di riferimenti storici, culturali, che insomma ti inorgogliscono. Questo è fuor di dubbio, no? Scoprire che già 3.000 anni fa qui c'era gente che 2.000 anni fa che batteva moneta o comunque esatto. Che aveva le sue elaborazioni, perché poi in fondo è questo, noi magari leghiamo la storia a determinati avvenimenti più o meno, e in cui questa zona c'era. Cioè, però è anche vero che dimentichiamo spesso che la storia significa anche studiare quello che è stata l'evoluzione culturale e quindi di elaborazione anche culturale di una determinata area, di una determinata zona. Insomma, noi anche in questo siamo fortunati. Vogliamo leggere un'altra poesia o vogliamo ascoltare? Come vuoi tu. Ascoltiamo la tua poesia. Va bene. Allora, sempre avevo scelto, prima che Maurizio facesse la sua richiesta mandando una foto su Facebook, avevo scelto un'altra poesia che è facilmente, è sempre, ci potrai trovare dell'amore. Però che gli adriani sicuramente troveranno qualcosa di familiare. Vesti di regolizia. Questo Adriano ci troverà molto. Adriano. Gli staranno mischiando le orecchie se non ci sta ascoltando. Vicoli di liquirizia, gente lingua vicina, il bianco in terra, spiaggia genitrice nella mia testa. Poi la corsa, l'armatura pesava. Briglia d'oro, passo stanco, riposerà. Ferma, gambe parallele, un soffio per le mie vesti leggere. Coriandoli tutti bianchi volavano via, avevi stracciato una bugia santa, tu guardavi senza tempo il percorso del tempo. La regolizia portava sempre la pioggia, io sapevo ed ero felice. Cosa farei per poterlo toccare? Io cosa farei? Dicono che sia capace di uccidere un uomo, non per difendersi, solo perché non è buono. Dicono loro che sono scienziati affermati, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. È alla ricerca di un posto lontano dal male. Certo, una grotta in un bosco sarebbe ideale. L'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande animale. Dicono siamo in diretta, lo scoop è servito, questa è la tana del mostro, l'abbiamo seguito. Dicono loro che sono cronisti d'assalto, classe di uomini scelti e di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. fare la voce che il mostro è cattivo. Puoi aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo, si dico che è morto sul posto. Dicono loro che sono soldati d'azione, classe di uomini scelti, di gente sicura. Ma l'unica cosa evidente è che il mostro ha paura. Il mostro ha paura. Vorrebbe farsi un letargo e prova a chiudere gli occhi. Lui sa che il letargo viene solo d'inverno. Riapre gli occhi sul mondo, questo mondo di mostri che hanno solo due zampe, ma sono molto più mostri. Gli resta solo una cosa, il suo mondo lontano. Lo fa con tutto il suo fiato, ma sempre più piano. Vorrei poterlo salvare, portarlo via con un treno, lasciarlo dopo la pioggia, là sotto l'arcobaleno. Allora, spiego anche un po' questa mia sigla, che ormai chi ci ascolta forse avrà imparato a riconoscere e a capire. Questo è un brano che tantissimi anni fa mi accompagnava me a un altro paio di, allora si chiamavano DJ, nei nostri programmi, The Dance of Life di Narada Michael Walden, in cui c'è uno splendido Corrado Rustici alla chitarra, e credo che in fondo, ecco, non sia male, no, il discorso della danza della vita. In fondo, ecco, è veramente la vita, è una danza, a volte un po' più drammatica, a volte un po' più allegra, ma in fondo bisogna prenderla così. Alessia, ma nei tuoi scritti, attenta come rispondi. Esatto. No, ho detto così perché dovreste vedere la faccia di Alessia con le mani sulle cuffie, sembra rischia tutto e lei sta per rispondere. Ho detto, oddio, adesso la so, questo non la so. No, io volevo chiederti questo. Ci sono, cosa pensi che i tuoi scritti, no, la tua poesia in qualche modo ha un qualcosa di didascalico, nel senso, tende a, non dico a insegnare, ma comunque a trasmettere un messaggio? E se sì, io penso di sì, perché in fondo l'esigenza di scrivere nasce anche dall'esigenza, no, di trasmettere, di diffondere. E come lo vedi tu il tuo messaggio? Non è che fai delle domande semplici. No, beh, No, sicuramente è ovvio che scrivere poi è anche per, cioè sicuramente nasce da un'esigenza personale, ma cerca il riscontro di un lettore. Se posso insegnare qualcosa, io onestamente questo non te lo so dire. Cioè dovresti poi... Sì, capisco, però voglio dire nei trovare tuoi... il riscontro nel lettore. Ma appunto nel tuo incontro con i lettori, probabilmente te l'ho fatta male la domanda, nel tuo incontro con i lettori. Guarda, di recente questo che si chiama feedback. Feedback. Insomma che... Guarda, di recente mi è capitato... Di scrivermi con una un'amica che non sentivo da tempo, e lei, forse te l'avevo anche detto, lei mi ha detto, mi ha scritto che a volte leggermi è faticoso, altre volte è necessario, e che comunque la conduco in un viaggio. Cioè in pratica lei mi ha detto che viaggiamo insieme. Questo sicuramente è un aspetto molto positivo, perché vuol dire quindi che quello che scrivo, che possa essere il libro o il post su Facebook, perché comunque c'è anche questo aspetto. Sì, sì, poi parliamo anche di questo. Hanno probabilmente un'attinenza nella vita quotidiana. Sì, no, io racconto, no, anche questo piccolo aneddoto, perché l'altro giorno ci siamo incontrati io e Alessia per capire un po' come la cosa si sarebbe svolta, poi vabbè, di tutto si è parlato, fuorché del programma, comunque, dicevo sì, anch'io per esempio un approccio nella tua poesia, non è che lo trovo faticoso, ma l'ho trovato un po' sì, un po' pesante per me, ma non che sia pesante la tua scrittura, capito? Così come trovo pesante in questi periodi, per esempio, leggere la Pietro Corvino, no? L'Armenuta, sto trovando difficoltà, ma ripeto, secondo me tutto dipende anche dallo stato d'animo e dalla condizione, no? Del lettore. Poi è logico che un viaggio, come mi dice la mia nipotina di 7 anni, stasera voleva venire, poi la prossima volta la porteremo, no? La mia nipotina di 7 anni mi dice, io dico: zio, ma perché ti piace leggere? E lei mi dice: perché viaggio con la fantasia. E credo che questa cosa sì, possa essere riconducibile. E io, leggendo i tuoi versi, sì, ci ho ritrovato parecchia tua, come dire, tua vita. O comunque sì, questo attaccamento alla terra, e questo anche attaccamento, come dire, alla quotidianità, che sembra che certe volte questa quotidianità ti manchi. Sì, a volte sì. L'assenza sembra essere proprio questa. E in fondo poi è la storia anche di molti di noi, credo, anche tu sei più brava a descriverla, a renderla bella. Vabbè, ok, mandiamo un po' di musica e poi affronteremo un altro argomento, come dire, d'attualità. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo, e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi, per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno 2 o 3 volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi. Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà. E non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Non ci sei più, non ci sei. La poesia è nata prima della scrittura, le prime forme di poesia erano orali, come l'antichissimo canto a batocco. È un poeta che amo tanto, perché secondo me è un poeta, Samuele Bersani, che avete ascoltato, in un giovane Samuele Bersani, appena scoperto da Lucio Dalla, poi ha fatto la sua strada. Questa, la musica, la stiamo condividendo io e Alessia Bronico, poetessa ospite questa sera di Schegge. Impazzite più che mai questa sera, nel senso che stiamo facendo un piccolo excursus attraverso l'opera di Alessia, attraverso le insomma anche argomenti che ci piacciono. E io volevo tirar fuori un argomento un po', come si suol dire, di moda, e cioè che rapporto c'hai tu con i social, ma nel senso che è interessante sapere un po' la tua opinione riguardo, appunto, in quanto divulgatrice, quindi in quanto persona che non si può sottrarre, no, da questo. Vabbè, cioè, nel senso, cioè, ci come si la può vedi? Sottrarre, perché poi c'è una, sì, scelta. Se penso ad alcuni poeti che leggo e mi piacciono, non ci sono proprio, cioè zero social. Quindi dico, probabilmente ci si può sottrarre. Mentre altri, ce ne sono altri anche che mi piacciono molto e che invece sono molto presenti. Quindi è proprio una scelta nell'utilizzo. Mancare o esserci. E come esserci? Io devo dire, non pubblico continuamente le mie poesie. Scrivo a volte dei pensieri estemporanei, altre volte mi piace condividere delle frasi di autori che sto leggendo. Però, come dicono i miei allievi, professoressa, è Instagram quello che conta adesso, il resto cosa, mi dicono loro. Quindi, sì, è vero. Ne parlavamo anche io e te, sì, qualche giorno fa. Instagram, l'immagine. E l'immagine, esatto, e però in fondo se uno poi ci pensa, anche tu a modo tuo, no? Come poeta sei una fotografa, nel senso che non disegni con la luce, come dice la parola con greca, ma disegni con le parole, quindi in fondo anche le tue sono immagini. Il problema è quanta attenzione dedichiamo oggi alla lettura, comunque alla comprensione o alla lettura di queste immagini fatte da parole. Ma a me interessava anche un po' capire la tua opinione, sapere un po' la tua opinione riguardo a questo fenomeno in generale. Sicuramente i social aiutano i piccoli autori a pubblicizzarsi, ad interagire anche con altri con i quali magari non si avrebbe modo, no? Di vedere. O pensiamo a stasera, a questa bellissima serata, se non ci fossero questi mezzi probabilmente non avrebbe modo di diffondersi in maniera... Ma quindi i social come specchio dei tempi, secondo te è un'esagerazione? No. Cioè in realtà io credo che a volte se ne faccia un uso eccessivo. Quindi io stessa probabilmente a volte mi sento un po' distratta, mi deconcentrano, cioè mi rendo conto che sono piuttosto invasivi, però credo anche che abbiamo questa facoltà di scelta e lì dobbiamo metterla in atto, questa facoltà di scelta. Ma adesso ti faccio una domanda un po'... Domandone, adesso mi reggo le cuffie. Trabocchetto. No, trabocchetto. Ma tu che rapporto hai con i likes? Quindi, cioè... Tu in quanto scrittrice, in quanto intellettuale. Ma questa intellettuale è una parola grossa. Sì, io dico così perché comunque sei un intellettuale, 360 gradi, con le tue passioni, eccetera. Quindi sto discorso dei likes è gratificante, non è gratificante? Perché in fondo poi... Chi si pone così un po' dall'alto, io ascolto molti, no, di dire ma io vedo i social come qualcosa di e questo lo dicono quelli che si spacciano per intellettuali, no? Ma poi in fondo questo è un mondo in cui noi siamo, vogliamo che qualcuno ci apprezzi, no? Che sicuramente. Cioè sarebbe ridicolo dire che noi stiamo sui social ma che non ci piace essere seguiti, cioè, sarebbe ridicolo. Però credo anche che questi like siano un po', cioè lasciano il tempo che trovano. Poi sono, a volte mi chiedo, ma quanto sono reali? Sì. No? Cioè sono ovviamente domande che mi faccio. Ma penso che te le fai anche tu e se le farà anche qualcun altro. Non dico che chi magari apprezza qualcosa che ho scritto attraverso il like di un post non sia effettivamente, cioè non abbia effettivamente gradito il post, ma poi mi chiedo effettivamente quanto di quello che passa attraverso questo social, quello, l'altro, senza essere qui a specificare, sia duraturo. Ma guarda, se ti può consolare... No, tu sei esperto, quindi adesso tu... No, se ti può consolare dalle ultime letture che ho fatto, anche per questioni di lavoro, insomma... la cosa interessante, o comunque la cosa consolante, è che comunque i social sono una piazza virtuale e quindi essendo una piazza virtuale tu ritrovi le tue cerchie di amicizie, cioè sono i social non sono poi così tanto social. Cioè i social sono in fondo una riproduzione di delle nostre, diciamo, vecchie comitive, leggermente un più allargate, perché comunque è logico che ciò che tu esprimi Se non sei completamente d'accordo con me, o mi banni o mi cancelli, quindi poi alla fine io sono buona, io non banno nessuno. No, però sai, succede questo, no? Che se a te una persona ciò che dice, ciò che fa appunto non piace, c'hai la possibilità di bloccarlo, quindi poi alla fine, se uno va a valutare proprio i grossi numeri, ci si accorge che in fondo non si riproduce altro che la nostra vecchia cerchia di amicizie. E quindi la cosa assurda è che noi parliamo di social come di un qualcosa che ci apre, invece non è cambiato niente. No, è cambiato, okay. è cambiato, ma questa cosa credo che sia anche tra virgolette consolante, perché cioè i social non è che poi sono alla fine popolati esclusivamente da haters o da persone così cattive, ci sono i buoni e i cattivi, come sono i buoni e cattivi, ci sono buoni e cattivi in tutte le società. Esatto. La chitarra che sentite in sottofondo, ve l'ho detto prima, è quella, la solo di Corrado Rustici, che è un nostro grandissimo musicista che però è riuscito a sfondare solo tantissimo in America, ecco. Pensate che è stato, era e il chitarrista preferito da Narada Michael Walden. Questo ogni tanto è sto flash, ogni tanto di musica lo mando lì, però la serata di questa sera che sta per terminare è stata completamente dedicata alla poesia di Alessia Bronico, nostra concittadina emigrata al nord. Con lo Ius Soli? Sì. Cioè, no. Ma tu vuoi tornare, no? Sì, ovviamente. A fare le vacanze. A fare le vacanze, sì. Vabbè, ma tanto ormai nell'era dei social, nell'era della globalizzazione, è come se fosse sì, qui. Sì, non è un problema. Cioè. Poi tu quando vuoi ci chiami, noi facciamo, poi ci fai una diretta da dove stai tu. Io esatto, non... ma adesso vedrai. Sì, sì. Intavoliamo la discussione su. Ci stiamo lavorando, no? Anche perché sarebbe anche interessante per noi proporre tuoi colleghi poeti, insomma, per quanto certo. Ci è possibile, noi siamo aperti. Noi lo diciamo sempre qui a Cerrano Web, questa radio è vostra, questa radio è del territorio, chi fa questa radio lo fa per passione, non certo per guadagnare soldi, con la speranza appunto di lasciare una piccola traccia. E sicuramente dimmi, vai, di vai. Questa radio sì. Per pubblicizzare, forse un termine poco carino, ma così è, un concorso di poesia aperto agli esordienti, ecco, vedi? Che è promosso da Lieto Colle, che è la mia casa editrice, e da il movimento culturale Spiragli, che stimo e seguo nel proprio lavoro, ed è il premio letterario Beppe Salvia, la prima edizione. I riferimenti si possono trovare sul sito della casa editrice, quindi www.lietocolle.com e Movimento Culturale Spiragli, sempre sul sito del Movimento Culturale Spiragli. L'invio degli elaborati è fissato per il 1 marzo. È bellissimo perché la premiazione sarà a Roma, alla Biblioteca Centrale, e soprattutto perché questo premio è dedicato a questo grande poeta, poco conosciuto, che è Beppe Salvia, è stato un grande poeta, quindi io stimo molto il lavoro del movimento, e poi essere il premio sarà essere pubblicati da Lieto Colle, che comunque è una casa editrice meritevole, ecco. Quindi tu consigli consiglio agli esordienti di partecipare, certo. Perché è un concorso per gli esordienti, di mettersi alla prova. Esatto, questo lo consiglio anche io a Maurizio, che invece Maurizio non si mette mai alla prova, sperando che stia ascoltando, di mettersi alla prova, perché avrà grosse soddisfazioni, questo ne sono convinto. Io adesso prima facciamo ascoltare un brano, oppure passiamo direttamente ai saluti. Siamo ormai alle 22:04. Vi ricordo che siete stati, per chi c'è stato, ospite di Radio Cerrano Web. La potete ascoltare su Facebook, su TuneIn, su Radio Garden, su radio.net, su Listen to My Radio. Naturalmente ci potete anche ascoltare sul nostro blog Radio Cerrano Web, radiocerrano.net, lì ci potete ascoltare direttamente. Poi ci potete riascoltare attraverso i podcast che abbiamo, potete ascoltare questo programma così come gli altri. E una cosa che ci tengo a dire è che questa radio è una radio legata a doppio filo con l'area marina, Torre del Cerrano, da qui il nome, è un po' un simbolo del nostro territorio. E siamo forse la prima radio legata a doppio filo ad un parco marino, anzi no, forse siamo l'unica radio legata a doppio filo al parco marino, e questo ci inorgoglisce un po'. E questa sera quindi ci avete ascoltato in questa incursione non ortodossa nel mondo della poesia. Volevi dire qualcos'altro, Alessia? No, no, va bene, io ti ringrazio tantissimo per aver pensato a me, mi sono divertita tanto. Hai visto? Si può rifare. La tua prima esperienza in radio. Esatto, poi io sono timida, non si direbbe, ma... la radio è buono per questo, perché cos'è? Non ci sono le telecamere, quindi... Esatto. Che intimidiscono di più. No, io ringrazio te tantissimo perché comunque ci hai... come si suol dire, ci hai deliziato, no? Con, le, uh-huh. con i tuoi pensieri, con le tue parole e anche con le tue opinioni, a cui tenevamo particolarmente. E, appena sei disponibile per altre cose, noi siamo qui e intanto ti faccio anche tutti i migliori auguri, soprattutto per la tua vita privata e per la tua vita professionale. Grazie mille. Buonasera, buonanotte a tutti. Lascia così, stasera sto sballando, che voglio partire. Due parole amore che tanta semplicità potesse essere vera. Ah, e dimmi qualche cosa, e non mi lascia così. O vento sta passando e io voglio sorridere. Con le mani da terra c'è chi non guarda e non mi parla bene. Desse essere all'era, ma maluco di te, e io mi sento vecchio. Desse essere all'era, una parola sola, ma resta calore, senza un passo no. Vicino a te. cucendo strilla tu. Sto vicino a te, fino a che non tuo fa. Sto vicino a te, ma non piglia caruta. Sto sempre con te, che passa giunto, ma che parla a maffa, sempre le stesse cose, facendo questo canto, e ci potrà ogni volta, che c'è cuore di chi. E se pazzo tutte le giorni per capire, oh, capire.